Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di oggi: superata la paura che si è registrata ieri sera per questo petrolio che è schizzato quasi a 130 dollari, è stato l'incremento più forte in una seduta dal 1991, poi si è capito che in realtà era anche una ricopertura tecnica, un elemento tecnico. Oggi infatti il petrolio è tornato a 107,5 dollari al barile. In realtà, come era prevedibile, molte borse, soprattutto questa mattina quelle asiatiche, ma anche quelle europee, non scherzano, stanno portando a casa, incamerando il forte calo di Wall Street ieri in chiusura. Ieri Wall Street aveva perso il 3,3%, il Nasdaq addirittura il 4,2%. Oggi in Asia Hong Kong ha perso il 3,9%, Shanghai si è limitata a un calo più contenuto di poco superiore all'1%, e Tokyo era chiusa per festività, mentre appunto Singapore, Hong Kong ha fatto meno 2,7% e Taiwan più 1,1%. In realtà le borse europee in questo momento sono leggermente miste, nel senso che se Parigi e Londra e anche Milano sono tra le peggiori, rispettivamente Parigi perde il 2,5, Londra perde il 2,2 e Milano perde il 2%, Francoforte perde in maniera decisamente inferiore, lo 0,9%. Tra i titoli italiani segnaliamo l'Espresso, che cala in maniera brusca, meno 9,7%, un tonfo più che un calo, il Banco Popolare meno 7,7%, Italcementi meno 5,5% come STMicroelectronics, il 5,4% lo perde Pirelli, il 5,2% la Popolare di Milano, il 5,1% Prismian, e poi in pregiro perde il 4,6%, Monte dei Paschi 4,5% come Autogrill, il 4,4% lo perde Tenaris, il 4,3% Fastweb, il 4% del calo di Mondadori e di Buzzi, il 3,8% lo perde Fondiaria, il 3,1% Bulgari, il 3% del calo di Mediaset. Concludiamo con Lottomatica e Unicredit che perdono il 2,9%, Telecom il 2,8%. Chi guadagna? Poca roba, Fiat più 0,8, Snam più 0,3%. Sono in flessione oggi anche i petroliferi e gli energetici in generale, Eni meno 0,7%, Enel meno 0,6%, questo nonostante appunto il prezzo del petrolio si sia riportato su livelli non come quelli di ieri notte, ma sia a 107,5 dollari al barile. L'euro è molto forte rispetto alle ultime sedute, a 1,47,23. Parleremo di mercati in apertura, poi della vicenda anche Saras, inchiesta della magistratura sulla forchetta di collocamento del titolo, e poi parleremo della nostra economia, perché oggi nel Consiglio dei Ministri il Ministro Tremonti, adesso ve lo facciamo ascoltare, è intervenuto anche sulla legge finanziaria per fare un approfondimento sull'export, perché sono appese tutte all'export le poche speranze italiane di chiudere l'anno non con il segno meno. È l'export infatti quello che ha rappresentato quel poco di crescita che si è vista in questi anni in Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora, Nomura, oltre ad aver acquistato tutte le attività asiatiche di Lehman Brothers a un prezzo di circa 225 milioni di dollari, oggi ha rilevato anche tutte le attività di Lehman Brothers in Europa, oltre all'investment banking, anche quelle relative al mercato azionario in Medio Oriente. Certo, se vogliamo usare un parallelismo con la vicenda dell'Italia, evidentemente è meglio comprarsi Lehman a pezzi e spezzettata che non nell'unico pacchetto, visto che Lehman Brothers fino alla bancarotta non trovò un compratore. Adesso invece almeno Nomura ha comprato le attività asiatiche, europee e medio orientali. Le compagnie assicurative italiane sarebbero esposte nei confronti di obbligazioni Lehman per circa 1 miliardo, 1 miliardo e 500 milioni di euro, che andrebbero a sommarsi al miliardo di esposizione in obbligazioni Lehman Brothers delle banche italiane complessivamente. Quindi il nostro paese, per quanto si capisce, dovrebbe essere esposto nei confronti del crack della Lehman Brothers per 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo. E tra l'altro oggi è arrivata anche la precisazione del Monte dei Paschi, che verso Lehman Brothers ha un'esposizione di circa 40 milioni di euro. Ma i Kodakons chiedono che parta, visto che da gennaio il governo ha assicurato che partirà la class action, la possibilità quindi di azioni, di cause collettive, che venga fatta nei confronti anche di questa vicenda, perché sarebbero 40.000 i risparmiatori italiani coinvolti nel crack del Lehman Brothers, che ora rischiano di perdere buona parte delle somme investite. Sono soprattutto clienti, come ha spiegato anche Deborah Rosciani nel corso di Salvadanaio in questi giorni, che hanno i portafogli obbligazioni, prodotti strutturati e soprattutto le polizze index link legate alla banca americana. Continua a salire il tasso interbancario, nel frattempo l'Euribor a tre mesi oggi è passato al 5,06%. Ancora veniamo alla Germania, dove i metalmeccanici, o meglio il potentissimo sindacato dei metalmeccanici tedeschi, IG Metall, ha formalizzato oggi una richiesta di aumenti salariali dell'8%, è la richiesta di maggiori aumenti da 16 anni a questa parte. E questa richiesta, se tanto mi dà tanto, avrà un impatto anche sulla Banca Centrale Europea, intanto perché è molto sensibile all'economia tedesca e in secondo luogo perché proprio la BCE ha ripetutamente chiesto in queste settimane di evitare la cosiddetta spirale dell'inflazione nei rinnovi salariali, e cioè che attraverso i rinnovi salariali non si generi ulteriore inflazione con aumenti forti superiori al tasso di inflazione dei salari. Passiamo all'Italia, perché oggi nella nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato via libera alla finanziaria, viene detto in maniera chiaramente, in maniera molto chiara, che è crisi economica in Italia. Il PIL 2008 del nostro paese è stato portato infatti da una crescita dello 0,5% prevista allo 0,1%, quindi un quinto di quanto previsto. Quello del 2009 scende, ma non così tanto, dello 0,9 atteso di crescita economica allo 0,5. Il deficit però, ha specificato il governo, resta invariato, quindi per quest'anno al 2,5, l'anno prossimo al 2%, sempre nella nota di Palazzo Chigi. Slitta però il pareggio di bilancio, perché se l'obiettivo era nel 2011 o meglio 2012 deficit pari a zero, nel ragionamento al documento di programmazione economico-finanziaria presentato oggi slitta tutto di un anno, quindi 0,1 nel 2012 e 0 nel 2013. Questo perché nel 2009 è previsto un leggero peggioramento del deficit al 2,1%. Io dico molto tranquillamente che arrivare a un pareggio di bilancio nel 2012 o nel 2013 sì, è importante per l'Europa, ma per noi sarebbe importante arrivarci comunque, sarebbe la prima volta per il nostro paese di un deficit pari a zero. E come anticipavamo, via libera al disegno di legge sulla finanziaria dal Consiglio dei Ministri. La manovra triennale, questa è la novità introdotta dal Ministro Tremonti, vale 36 miliardi di euro, 30 miliardi di minore spese, 6 miliardi di maggiori entrate, dividendo, ma non è esattamente corretto farlo, vorrebbe dire più o meno 12 miliardi di euro l'anno. Non è corretto perché è distribuita in maniera diversa, infatti 16 miliardi riguardano il 2009. Di cui 3 miliardi sono destinati al rinnovo dei contratti pubblici. È una legge finanziaria snella perché da quanto si è appreso ci sono 3 articoli e 5 tabelle, e appunto c'è anche lo stanziamento, viene anche indicato lo stanziamento per il rinnovo dei contratti pubblici pari a 3 miliardi. E dentro questi rinnovi ci sono 2 miliardi e 800 milioni di rinnovi veri e propri, ma 200 milioni che verranno destinati, come chiesto dal ministro Brunetta, per dare incentivi economici ai dipendenti più meritevoli, quindi i bravi rispetto ai cosiddetti fannulloni. E in questo modo il ministro Tremonti sottolinea che sono stati rispettati gli impegni presi e sarà evitato l'assalto alla diligenza. Si è realizzato l'impegno preso, una finanziaria fatta sostanzialmente entro luglio per 3 anni, con una discussione che in Parlamento sarà di principio ma non di dettaglio, essendo preclusi emendamenti o adattamenti che negli anni passati per decenni hanno configurato quell'assalto alla diligenza che ha occupato per mesi e mesi ogni autunno il Parlamento e il dibattito e che ha portato a un deterioramento strutturale dei nostri conti pubblici. Dobbiamo questo risultato al coordinamento, all'impegno a supporto dato dal Presidente del Consiglio. Senza un impegno di regia del Presidente del Consiglio non sarebbe stato possibile fare una finanziaria già a luglio e stabilizzata su 3 anni. È un passaggio che non ha precedenti nella nostra recente storia finanziaria, anzi non mi pare che abbia precedenti anche andando indietro nel tempo. Marca una discontinuità positiva e allinea il nostro Paese alla prassi consolidata e migliore, alla migliore pratica degli altri Paesi europei. Così il ministro Giulio Tremonti. Il fronte all'Italia è ormai diventato un appuntamento fisso di questo programma. È terminato un'ora fa l'incontro tra il presidente, l'amministratore delegato della CAI, Roberto Colaninno, e Rocco Sabelli con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta a Palazzo Chigi. Non è trapelato nulla, mentre da un lato oggi il presidente della Camera Gianfranco Fini ha detto per l'Italia ci sono almeno per qualche giorno dei piccoli spiragli, e ha visto con favore la partecipazione dei dipendenti agli utili, la proposta arrivata ieri dai piloti. Più cupo invece il tono del ministro dei trasporti Altero Matteoli al microfono della nostra Chiara Di Michele. Ho fatto una breve storia di come sono andate le trattative e ho ribadito anche qui di fronte ai colleghi senatori che la situazione è gravissima. Se non c'è un ripensamento da parte delle sedi sindacali, il governo non è nelle condizioni di poter tentare di recuperare la società CAI, perché non abbiamo altre offerte da parte di nessuno. Il commissario Fantozzi, con il quale ho parlato anche poco tempo fa, mi ha detto che al momento non sono arrivate altre offerte. Il governo ha l'obbligo di fare tutti i tentativi, che qualcuno ci accusa di stare fermo, questo non è vero. E ancora il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, a margine appunto dell'audizione, ha sottolineato sempre al microfono la nostra Chiara Di Michele che la proposta della CAI è dura ma è l'unica possibile, e ha fatto un appello ai sindacati. A me è sembrato che la proposta fatta dalla cordata fosse una proposta, per carità, dura, ma l'unica possibile per sperare ad una nuova Alitalia di poter decollare. Se categorie sindacali significative l'hanno sottoscritta, vuol dire che poteva essere sottoscritta. Mi auguro che quelli che non lo hanno fatto tornino sui loro passi. E poi sulla vicenda c'è la lettera di Walter Veltroni a Silvio Berlusconi, le proposte del PD per risolvere la crisi all'Italia. 3 strade possibili: la prima, che la CAI faccia un passo avanti verso le posizioni espresse dai sindacati, come le indubbie condizioni di vantaggio ad essa offerte dal decreto del governo consentono e richiedono. Secondo, che ci si attivi per riprendere i fili di quei negoziati con soggetti esteri che da soli o con la CAI potrebbero acquisire il gruppo Alitalia e avere un ruolo rilevante nella salvezza e nello sviluppo dell'azienda. Terzo, che il commissario, e quindi Fantozzi, in rappresentanza dell'Italia, concluda immediatamente e positivamente un'intesa con tutti i sindacati, consentendo così poi alla CAI e alle compagnie aeree di acquisire Alitalia. e il presidente della CAI Roberto Colaninno ha valutato positivamente l'appello al dialogo del leader del PD Walter Veltroni, mentre il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni ha invitato la CAI ad andare avanti e ha definito strampalata la proposta dei piloti e del personale di volo che ieri vi abbiamo fatto ascoltare, ossia l'utilizzo di una parte dello stipendio del TFR per entrare nel capitale della CAI. E vabbè, alcuni di voi ci scrivono su questa vicenda dicendo che il vero scandalo è la valutazione fatta da Air One che viene valutata quasi quanto all'Italia, pur essendo di gran lunga più piccola, un quarto, un quinto. Molti lo hanno osservato, diciamo delle due l'una: o viene valutata troppo Air One, o viene nel piano industriale valutata troppo poco all'Italia. Basta decidersi, ma insomma metterle quasi sullo stesso piano tra le 300 e 400 milioni di euro ognuna è forse eccessivo, vista la diversa flotta, gli slot e diciamo tutti gli asset, come si chiamano in gergo, dell'Italia rispetto a quelli di Air One. Parleremo, dicevo, anche di Saras. È pesante in borsa oggi il titolo dopo quanto scritto oggi dal quotidiano Repubblica, ossia un'inchiesta in corso del Tribunale di Milano di falso nel prospetto per la quotazione. I PM dicono che invece che a 6 euro il prezzo del collocamento di Saras sarebbe dovuto essere tra i 4 e i 5 euro, con un danno in questo modo, portando il prezzo del collocamento a 6 euro c'è stato un danno per il mercato di 770 milioni di euro e nell'indagine viene avanzata anche l'ipotesi che parte di questi soldi sia servita a Massimo Moratti per ripianare i debiti nell'acquisto di calciatori sull'Inter. Massimo Moratti ha risposto: sono solo calunnie e niente di più, mentre Gianmarco Moratti, presidente della Saras, si è trincerato dietro un no comment. Adesso però restiamo in tema di mercati, di crisi finanziaria, perché ha parlato Bush e continuano a esserci diverse analisi su quanto il piano americano possa essere risolutivo. Eh sì, professor Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano, editorialista del Corriere della Sera, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Buonasera. Le faccio ascoltare l'ultima dichiarazione di George W. Bush, che dopo aver fatto il pompiere per mesi dicendo che l'economia è solida, ha varato un piano che alcuni repubblicani dicono è arrivato al socialismo negli Stati Uniti, 1.000 miliardi di dollari complessivamente, il piano del congelatore, del frigorifero, come l'abbiamo chiamato noi, tutti i titoli pericolosi, le obbligazioni di carta, le cose che puzzano potranno essere messe in questo congelatore per 2 anni e lo Stato garantisce in attesa che passi la buriana. Oggi Bush è tornato sul suo piano e che lui valuta in circa 700 miliardi di dollari. Sentiamo il passaggio. Many of you here are watching how the United States government will address the problems in our financial system. Molti di voi qui presenti guardano con attenzione a come il governo degli Stati Uniti sta rispondendo ai problemi che colpiscono il sistema finanziario. È questa la ragione per cui abbiamo preso una serie di misure per prevenire una grave frattura nell'economia statunitense che avrebbe avuto effetti devastanti sulle economie di tutto il mondo. Abbiamo promosso la stabilità dei mercati prevenendo il fallimento di alcune importantissime società. La Federal Reserve ha iniettato in modo tempestivo la liquidità necessaria al sistema. La scorsa settimana ho annunciato il piano con l'obiettivo di fronteggiare l'instabilità sui mercati. Posso assicurarvi che la mia amministrazione e il Congresso stanno lavorando insieme in modo che possa essere approvato rapidamente il piano di salvataggio. Sono fiducioso. Credo che agiremo in modo tempestivo, come richiesto dal momento attuale. And I'm confident we will act in the urgent time frame required. Così Bush, e poco fa anche Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, ha detto il rischio fallimento era evidente a tutti e dovevamo per forza intervenire, altrimenti anche AIG sarebbe fallito, il primo gruppo assicurativo e mutualistico negli Stati Uniti. Professor Sapelli, intanto vorrei capire se hanno ragione i repubblicani più ortodossi nel dire che di fatto è arrivato il socialismo negli Stati Uniti, oppure oggettivamente era l'unica cosa che si potesse fare, visto una situazione che andava via via incancrenendosi. Ma no, sicuramente non è arrivato il socialismo. Poi 1.000 miliardi di dollari certamente sono una cifra consistente, ma no, rispetto alla montagna di liquidità che circola sui mercati di Wall Street e degli altri più importanti piazze mondiali, sono una nocciolina, insomma. Certo, è stato un atto di grande pragmatismo di aver così radicalmente invertito la marcia. Dopo gli Osanna ripetuti al liberismo e a questa, questo bisogna dirlo, a questo fallimento dei meccanismi di governance, soprattutto perché si era lasciato alle banche di investimento una totale autoregolazione e quindi non si erano sottoposti a quei vincoli che hanno le banche commerciali, il sistema è impazzito, insomma, anche perché questo è il frutto del colpo di Stato mondiale dei top manager, cioè i top manager hanno fatto un colpo di Stato silenzioso contro gli azionisti in questi anni e hanno trasformato le banche in supermercati che vendono dei prodotti finanziari da un lato e dall'altro hanno creato strumenti finanziari, quegli stessi strumenti finanziari che le banche vendono al cosiddetto retail, incomprensibili per i più. Questo, la macchina a un certo punto si è inceppata, però insomma siamo ben lontani dal socialismo, assolutamente, è una pratica di salvataggio. No, immagino fosse appunto una provocazione, però lei, capito, lei si sta puntando l'indice contro i top manager, no? Lo dico perché... Sì, perfettamente. Perché alcuni giorni fa in questo programma con un altro ospite, qualche manager si è sentito offeso. Allora parliamoci chiaro, i manager non sono... Sentiti offesi, ma... No, ma io dico in maniera molto seria invece, perché è vero che i manager vuol dire di tutto, però qui stiamo parlando dei numeri uno, perché adesso io vi racconto due cose, poi c'è la pubblicità e le faccio commentare a Giulio Sapelli. Insomma, il presidente di Bernstein's, la prima banca a fallire, mentre veniva fuori il buco miliardario della banca e i titoli crollavano a Wall Street giocava a golf, partecipava a tornei di bridge e aveva spento il cellulare. E voi dite, bel esempio di efficienza. Sì, peccato che nel 2006 avesse intascato uno stipendio di 33 milioni di dollari e Bernstein's poi è fallita a marzo. Stanley O'Neill se n'è andato da Merrill Lynch con una liquidazione di 161 milioni di dollari. Poi abbiamo visto che cosa è successo a Merrill Lynch, che di fatto non esiste più nella sua versione originaria. Charles Prince è stato messo alla porta da Citigroup con una buona uscita da 30 milioni di dollari. E ancora l'ex numero uno di American International Group, quella appunto che ha spinto il governo a intervenire poi con un salvataggio da 1.000 miliardi, si è preso 50 milioni di dollari. E concludiamo con Richard Fuld, che è il numero uno di Lehman Brothers, anche questa non esiste più, soprannominato il gorilla per via della sua aggressività, ma questo chi se ne frega. Il punto è che lui incassava un compenso annuo di 40 milioni di dollari. Non è in discussione lo stipendio di un manager privato, sono in discussione i risultati, visto che parliamo di banche che o hanno chiuso veramente oppure hanno avuto qualche decina di miliardi di svalutazioni. Mi hanno corretto gli ascoltatori, il numero uno di AIG, Martin Sullivan, ha rinunciato alla sua buona uscita, almeno quello. Professor Sapelli, perché lei ha scritto ieri che tutta questa crisi, questa distorsione nasce dalle stock option? No, io non dunque tutto, no, diciamo il 70%. Vabbè, non ho detto niente. Ed è già molto. Beh, in questi ultimi 20 anni c'è stato uno spostamento enorme di ricchezza dal profitto alla vendita. E c'è stata questa irrazionale esuberanza borsistica generata dal cosiddetto short-termismo, cioè la volontà di valorizzare le azioni e fare profitti a brevissimi tempi. Se lei pensa che l'aumento del prezzo delle materie prime, l'aumento del petrolio, deriva in larga misura dal fatto che oggi non abbiamo avuto investimenti industriali, quindi c'è un collo di bottiglia, non riusciamo a offrire né alimentari né fonti energetiche agli immensi popoli dell'ex terzo mondo, capisce cosa voglio dire? Unisce a questo, che quindi provoca inflazione da costi, il fatto che quando decine di migliaia di persone nell'industria e nelle banche sono incentivate con degli stipendi che dipendono in misura direttamente proporzionale, differita nel tempo, quindi è quasi un gioco allo scoperto, sul valore delle azioni, di comportamenti opportunistici per non fare investimenti, ma far aumentare in qualsiasi modo il valore di queste azioni e raggiungere livelli paradossali. In fondo, se lei pensa che abbiamo costruito la società industriale e finanziaria di cui siamo figli senza nessun bisogno delle stock option, i dirigenti industriali e bancari di 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa guadagnavano 300 volte meno di quelli che guadagnano adesso, eppure però abbiamo costruito tutto il mondo, mi sembra abbastanza bello, funzionante, tecnologico, finanziario che ci circonda. Delle stock option non c'è nessun bisogno, bisogna tornare al principio che se uno fa il dirigente, anzi non a caso adesso questi signori si chiamano manager, non li chiamiamo più dirigenti perché richiama il termine classe dirigente, cioè qualcuno che fa qualcosa anche per la comunità in cui vive, questi signori devono riprendere di nuovo i loro stipendi come una volta e fare il loro dovere, anche se l'azienda ha dei successi strepitosi. Sì, noi, questo andazzo deve finire. Noi facciamo una puntata in tempi non sospetti, devo dire, qualche mese fa, da cui emergeva per esempio che il rapporto tra lo stipendio del più pagato nell'azienda, quindi il top manager, e la qualifica più bassa era a 1,46, adesso vado a memoria, comunque riprendiamo subito i dati, 20 anni fa, ed è arrivato adesso a 1,500, per cui è aumentato moltissimo anche il divario tra lo stipendio, diciamo, dell'impiegato normale e quello del top manager, senza averne visti i risultati. Le chiedo però, professor Sapelli, l'idea di legare lo stipendio di un manager o di un gruppo dirigente alle azioni nasceva sul principio di dire: se tu fai gli interessi del gruppo ti lego a un risultato, avrai guadagnare più soldi, altrimenti l'obiezione era: vabbè, ma se no questi guadagnavano comunque cifre alte al di là dei risultati, cioè era un modo per legare l'attività dei top managers al risultato, non era un principio, diciamo così, strampalato e classista. No, era strampalato perché aveva dietro il concetto che l'uomo sia solo un cagnolino che si muove per degli incentivi materiali, come il cane di Pavlov, capito? Che non abbia nessun comportamento di tipo altruistico, questo è il problema vero. E lei cosa avrebbe preferito, mi scusi? Perché l'obiezione che una volta veniva fatta, come era una volta, no, ma innanzitutto quella teoria lì non ha funzionato, perché questi signori non hanno fatto gli interessi degli azionisti, né a breve né a lungo termine, ma solo i loro. Perché gli azionisti, andiamo pure a vedere quanto guadagnano degli azionisti con questo sistema delle stock option attraverso i dividendi, è un valore infinitesimale rispetto a quello che si mettono in tasca i management, quindi non ha nessun fatto, no, è una follia degli economisti che si sono fatti abbindolare da una modal suasion dei manager, come si fanno abbindolare i consigli d'amministrazione che firmano stipendi di questo tipo. Perché la cosa grave cos'è? È come si possa accettare persone che stanno in un board degli stipendi di questo tipo? Beh, magari perché aumentano anche i gettoni per la presenza dei singoli consiglieri, quindi tutti un po' ne hanno un beneficio, chiedo. Sì, e quindi il piatto di lenticchie serve per aumentare le cose, ma ha capito che da un punto di vista etico-morale è un meccanismo mostruoso. Ecco, lei che cosa preferirebbe? Perché insomma in qualche modo è giusto anche... Io preferisco uno stipendio fisso, come era una volta. Torniamo ai vecchi tempi. Sì, sono un reazionario, non un conservatore. Torniamo ai vecchi tempi. Io mi ricordo altissimi dirigenti industriali, banchieri di primissimo ordine, che facevano un cumulo di profitti e si pigliavano il loro stipendio. Che l'impresa guadagnasse o meno, più o meno, lo stipendio era sempre lo stesso. Il mondo funzionava benissimo, non c'è bisogno di avere questi incentivi materiali. Quindi lei è contrario anche a incentivi legati magari più nel medio termine, se fra 5 anni, e non legati al valore dell'azione, per la stock option? Sono assolutamente contrario. Io sono stato presidente di alcune società, dovevo lottare con i miei manager che non volevano fare degli investimenti industriali, perché sennò il profitto dell'azienda cadeva, non erano azioni, il profitto, e loro che avevano il variabile sull'utile ci avrebbero perso. E quindi ti mettevano tutti i bastoni in mezzo alle ruote per impedire che tu facessi, e si alleavano con chi? Con alcuni consiglieri. Certo. a cui davano delle prebende. Ecco, tutto questo tema va sotto la parola di governance, cioè certo. Quali sono i meccanismi di controllo, di bilanciamento e controllo all'interno di grandi gruppi, anche perché poi abbiamo scoperto tutti sulla nostra pelle che quando saltano per aria le 5 o 4 banche d'affari americane, la ricaduta poi per tutti, cioè le azioni in questo momento a Milano valgono il 33% in meno rispetto a, certo, a gennaio, quindi non si può dire fatti loro, anche perché poi ci sono migliaia di dipendenti. Le chiedo, secondo lei tornare uno stipendio fisso per tutti non può aprire la critica al fatto di vabbè, a questo punto sei slegato dai risultati, cioè in qualche modo in questi decenni è passato il concetto che lo stipendio di un manager debba essere legato ai risultati. Allora, se questo avviene solo sulla base delle azioni, sono d'accordo con lei, crea delle distorsioni, perché tu pompi il valore dell'azione, non fai investimenti seri e quindi alla fine crei un'azione drogata. Ma legare lo stipendio ai risultati non mi sembrava un'idea così peregrina, no? È una gran stupidaggine. La ringrazio. Uno deve compiere il proprio dovere per lo stipendio che ha. E il dovere di far funzionare bene le imprese, giusto? Certo. Quindi smettiamola con questa roba qui di legare gli stipendi ai risultati, eccetera. È una gran stupidaggine. Uno fa il dirigente, cioè quando farà questo ritorneranno a chiamarsi dirigenti e non manager, cioè non meccanici, ma saranno dei dirigenti, cioè parte della classe dirigente. Fanno il loro dovere, lo facciano anche se non hanno degli incentivi materiali, abbiano degli incentivi morali, che hanno avuto la soddisfazione di fare un bel lavoro. Ma accidenti, l'operaio di Primo Levi che era contento che faceva la chiavertella, gli davano dei soldi in più, si facevano straordinario, ma se faceva bene la chiavertella era pagato di più, faceva bene la chiavertella perché aveva il piacere di fare la chiavertella, perché non deve farlo un dirigente industriale, mi scusi. Sì, o finanziario come in questo caso. O finanziario. Secondo lei, concludiamo questo piano, da quello che capita sul mercato oggi, adesso ne parliamo, non sembra, ma questo piano americano, visto che lei è anche uno studioso di storia dell'economia, riuscirà ad avere cambierà lo scenario, ma tranquillizzerà anche alla fine i mercati, oppure come i più pessimisti ritengono nell'ultima parte dell'anno avremo altre brutte sorprese dall'America? Guardi, è un piano molto ragionevole e molto saggio. Guardi, l'America è un insieme di tribù governata da un'oligarchia illuminata, quale sia il presidente che ha. Anche questo mi sembra un piano illuminato. Il problema vero, il dubbio rimane che con questi pacchetti regalo, che non sappiamo di che cosa sono riempiti, derivati, subprime mortgage, non sappiamo quanti ne sono, è un po' come il latte inquinato cinese, quanti ne hanno bevuto, dove l'hanno fatto? A me sembra un piano ragionevole, mi sembra un piano che va nella direzione giusta, totalmente diverso da come si è affrontata la crisi del 29, quindi più saggio, però non sappiamo quant'è profonda la falda inquinata, è questa la questione, quindi sai, visto che questi hanno fatto delle porcherie come quelle che abbiamo visto, questo è un momento tragico della storia umana. Perché voglio dire, chi si sarebbe mai immaginato che questi signorini o signori nei loro completini gessati facevano cose di questo tipo? No, nessuno immaginava che, diciamo, pensavamo che Enron fosse il bubbone peggiore, nessuno immaginava che avessero riempito e impagliato in qualche modo le loro banche con tutta questa robaccio, perlomeno non avessero il minimo controllo. Comunque, professor Sapelli, la ringrazio perché insomma la sua idea è molto netta, alcuni la criticano, altri la sposano, cioè tornare allo stipendio dei dirigenti, e in base a quello uno deve portare un risultato perché già viene pagato per quello. Per difesa anche d'ufficio, non ha mai detto Sapelli che i manager debbano lavorare per la gloria, ha detto di tornare al modello di 20 anni fa o 30 anni fa in cui i dirigenti guadagnavano anche tanto e hanno creato il mondo occidentale come lo conosciamo, però quello stipendio era il motivo per cui dovessero lavorare bene, non c'era un ulteriore incentivo, non c'era il bonus in più per il raggiungimento del risultato, non c'era nemmeno e soprattutto le stock option. Ora, forse sul bonus, sul raggiungimento del risultato possiamo discutere, del fatto che le stock option abbiano creato una distorsione strutturale, penso che ci siano pochi dubbi dalla vicenda Enron in poi. È vero che poi si guardava più a far aumentare il valore del titolo, rinunciando a investimenti, perché poi sulla base di quel valore del titolo il manager aveva 50.000, 500.000 azioni, quindi un po' in conflitto di interesse, lo era, attenzione, e mi raccomando, stiamo ragionando di un sistema che non ha funzionato, non è che stiamo parlando del migliore dei mondi possibili, manager che hanno beccato decine di milioni di euro di buona uscita, di stipendi, hanno fatto saltare per aria banche storiche, alcuni di voi citano anche i casi italiani, devo dire forse quello di Cimoli su Alitalia e di Catania sulle feste, ma insomma anche lì c'era un accordo, bisogna sempre dare responsabilità all'azionista, cioè al governo, al tesoro, che ha accettato di firmare una buona uscita e uno stipendio del genere per un manager. Se poi il contratto c'è, il manager fa bene a chiedere questi soldi, il problema è a monte, come si diceva una volta. La borsa, Eleonora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, c'è chi scrive che io di borsa non ne capisco niente, sono assolutamente d'accordo, infatti mi aiutano i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. S&P MIB meno 1,3%, MIB meno 1,4%, un miglioramento nel finale, grazie a un'America che adesso sta guadagnando mezzo punto percentuale, le borse europee non chiudono sui minimi, Francoforte meno 0,6, Parigi meno 1,9, Londra meno 1,6%, brutta invece questa mattina la giornata in Asia, come prevedibile, vista la chiusura ieri di Wall Street. Che è successo al settore dei media, visto che il peggior titolo oggi in Italia è l'Espresso, meno 9,90. Esatto, l'Espresso sono andate male sin dalle prime battute di questa mattina e poi sul finale sono letteralmente crollate su un afflusso di vendite, ma diciamo a dare il là alle vendite sin da questa mattina è stato uno studio di Deutsche Bank in cui appunto viene raccomandato alla clientela di vendere le azioni. La raccomandazione è stata rivista appunto da hold a sell e anche il target di prezzo indicato per i titoli è molto più basso rispetto alle attuali quotazioni, che si attestano a 1,76% nonostante il ribasso del 9,9%. Ancora, tra l'altro male oggi tutti i media, oltre all'Espresso anche il titolo Sole 24 Ore perde il 3,7%, e poi su Telecom Italia Media invece, cioè il risparmio va bene, più 2,94%, c'è stato l'annuncio anche in Telecom Italia Media, la 7, dell'ipotesi di licenziamento, di esubero di 25 giornalisti, abbiamo ben capito, è per questo che Telecom Italia Media va bene? Ovviamente una società sotto i riflettori, soprattutto diciamo è sotto i riflettori tutto il comparto, tutta la società Telecom Italia, alla luce del fatto che si avvicina la data del consiglio di amministrazione in calendario giovedì. Il mercato spera e scommette che siano fatti annunci anche di operazioni straordinarie, sebbene proprio oggi Bernabé abbia di nuovo smentito. Si parla della rete, si parla ovviamente anche di Team Media, che è una controllata di Telecom Italia. Andiamo avanti, il comparto bancario di nuovo in profonda difficoltà e sofferenza, e di nuovo anche qui si sta nel flusso comunque negativo, si stanno facendo delle scremature, cioè quando vanno male le banche vanno quasi sempre male il Banco Popolare, meno 6,7, la Popolare di Milano meno 5%, il Monte dei Paschi meno 4,3%, oggi male sempre sul fronte bancario e finanziario in generale, Mediolanum meno 2,1, Alleanza meno 2%, Unipol meno 1,70, Unicredit meno 1,7%. Bene invece UbiBanca, più 0,8%. Abbiamo saputo da fonti interne all'ANIA che le assicurazioni italiane dovrebbero essere esposte tra il miliardo e il miliardo e mezzo in prodotti Lehman Brothers. C'è preoccupazione tra molti risparmiatori, sembra, dicono i consumatori, 40.000 che hanno sottoscritto obbligazioni o prodotti strutturati tipo le polizze index linked con dentro Lehman Brothers. I bancari oggi, Eleonora. Sì, i bancari oggi sono andati male, a parte Ubi che proprio sul finale si è riscattata e ha guadagnato, come hai segnalato tu, lo 0,78%. Sono andati male non solo in Italia ma in tutta Europa, il sottoindice Stoxx 600 delle banche europee è stato uno dei peggiori, meno 2,6 appunto la performance. Ovviamente appunto gli investitori si stanno chiedendo anche in America se effettivamente il piano da 700 miliardi riesca a salvare le banche e se soprattutto il settore creditizio possa vedere la fine del tunnel. Sui dubbi preferiscono ancora una volta alleggerire i portafogli di titoli bancari. Oggi se ne sono di nuovo viste le conseguenze, peraltro appunto sono andate malissimo ad esempio anche le banche svizzere. UBS è arrivato addirittura a perdere oltre l'11% anche oggi durante della seduta. Allora, ancora sui titoli, oggi tra l'altro pesante Pirelli, meno 4,6%, che è successo? Sì, su Pirelli è appesato un report negativo, si parla oggi soprattutto di report, questa volta è di UBS che ha rivisto la raccomandazione da buy a neutral, ovvero consiglia i propri clienti di non acquistare più i titoli di Pirelli, ha rivisto al ribasso anche la valutazione delle azioni a prezzi più bassi rispetto alle attuali quotazioni e peraltro consiglia di vendere anche le azioni della controllante Camfin, anzi più che controllante partecipante, visto che è una, sì, una quota pari al 25% di Pirelli. Allora, oggi il numero uno di Finmeccanica per Francesco Guaraguaglini, in una lunga intervista su Sole 24 Ore, ha rassicurato su tempistica e operazione DRS Technologies, grossissima operazione dal punto di vista industriale di Finmeccanica negli Stati Uniti, operazione giudicata dal mercato anche un po' costosa. Il titolo? Il titolo oggi ha reagito bene, infatti appunto ha chiuso, è vero, è in ribasso, anzi ha chiuso invariato fino a poco prima della chiusura era in ribasso, ma ha sempre fatto meglio rispetto al mercato. Le azioni Finmeccanica sul finale si sono attestate a 16,02 euro. L'intervista sul Sole 24 Ore è stata molto rassicurante per il mercato, che fin dalle prime battute quindi ha iniziato a puntare i riflettori su questa società. Bene, bene si fa per dire, nel senso che anche oggi comunque l'1,3% il mercato l'ha lasciato giù, dicevamo di positivo Fiat più 0,80 e UbiBank, l'ha già ricordato tu, più 0,78, Seat più 0,74, Snam mezzo punto percentuale, euro a quota 1,4725. Un paio di risposte sintetiche sul tema sollevato da Sapelli, stock option, premi ai dirigenti manager. Attenzione, si parlava solo dei dirigenti e dei manager, non dei dipendenti e degli operai, perché un conto è legare una parte del salario variabile alla produttività in azienda, e un conto è dire a un dirigente o un manager che comunque ha già uno stipendio consistente, quello è lo stipendio per ottenere risultati senza bisogno di stock option e bonus particolari. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver parlato, meglio, avervi dato gli aggiornamenti su Alitalia, aver discusso dei danni creati da un sistema di premi ai manager e super manager americani, le stock option, quindi i premi in azioni, che secondo Giulio Sapelli ha portato alla crisi strutturale, sistemica delle banche d'affari a cui stiamo assistendo, e aver ricordato, lo facciamo ormai da qualche puntata, che in tutta questa vicenda le banche italiane ne sono uscite bene, c'è chi dice perché più arretrate, io non lo so, però sicuramente meno esposte di delle banche britanniche e svizzere, anche di qualche banca franco-tedesca nei confronti dei mutui americani ad alto rischio e di carta che sta diventando cartaccia. Adesso ci occupiamo della vicenda Saras e poi torneremo sull'economia italiana, visto anche il via libera al Consiglio dei Ministri, alla legge finanziaria, all'architrave della legge finanziaria. Allora, che cosa è successo oggi? Su un quotidiano la notizia che la magistratura sta indagando sul collocamento in borsa del titolo Saras, famiglia Moratti, lo ricorderete, nel 2006, un collocamento che deluse molti ascoltatori perché fu sempre sotto i livelli di prezzo del collocamento, 6 euro. Per azione. Devo dire che se fosse così ce ne sono tanti altri titoli che non hanno mai raggiunto quel livello di il livello di collocamento. Il problema è che secondo la perizia dei PM la forchetta di prezzo corretta avrebbe dovuto essere un'altra e qui entriamo in un campo molto delicato. È in collegamento con noi Valeria De Rosa, buonasera Valeria. Buonasera a te Sebastiano e a tutti i nostri ascoltatori. Allora raccontaci che cosa si è capito di questa vicenda, su che cosa starebbero indagando i PM. Allora, secondo la ricostruzione che è stata fatta dal consulente, da un consulente tecnico della Procura di Milano, il dottor Honegger, quel titolo, quindi quello di Saras, valeva tra i 4 e i 5 euro per azione. Le banche collocatrici e la famiglia Moratti lo hanno invece appunto collocato sul mercato a 6 euro e secondo questa ricostruzione l'incasso, e si parla di oltre 700 milioni di plusvalore, sarebbe servito soprattutto per un ramo della famiglia, quello di Massimo Moratti, per far fronte ai debiti dell'Inter. Questo perché, cioè, il punto contestato dal consulente, quindi dal tecnico, è di non aver pubblicato alcuni dati rilevanti nel prospetto informativo, e cioè l'utile preso in considerazione per calcolare il valore della società, quello del 2005, era pari a poco meno di 300 milioni di euro. Ed era un utile, tra virgolette, diciamo così, gonfiato da utili derivanti da scorte di magazzino, quindi era un utile, tra virgolette, particolare, e i risparmiatori non erano stati avvisati di questa eccezione. Si sarebbe dovuto prendere a riferimento un utile depurato da questi utili straordinari. Da queste componenti straordinarie, esatto. Certo. E infatti l'utile nel 2007 è stato di 250 milioni di euro. Io devo dire, è un po' strano, è la prima volta che vedo una magistratura che interviene addirittura sulla forchetta di prezzo del collocamento. Cioè, fosse intervenuta ai tempi della New Economy saremmo ancora qua a parlarne, quando i titoli furono collocati a 40-100 volte l'utile per azione. E da quello che tu stai raccontando, l'ipotesi dei PM è che questi soldi siano stati utilizzati per ripianare alcuni debiti dell'Inter, detto bruscamente. La risposta della famiglia Moratti? La risposta è stata prima di tutto da parte del presidente di Saras, Gianmarco Moratti, un no comment molto secco. Da parte di Massimo Moratti ha semplicemente detto si tratta di calunnie e niente di più, però anche ha parlato e sta per uscire con un comunicato ufficiale anche il chief executive officer di Saras, il dottor Costanzo, il quale assicura che il prospetto è stato redatto secondo le normative vigenti e che prevede di scrivere a bilancio le scorte e i valori correnti non storici, e comunque in quel prospetto informativo c'era una tabella che riportava entrambi i valori delle scorte. Ovviamente sarà facile poi dimostrarlo recuperando il prospetto informativo dell'epoca. E dicevo, in questo giorno il governo ha anche confermato una riduzione delle stime di crescita, dallo 0,5 si è passati allo 0,1, contenuto nel documento di oggi, nella nota di oggi. E quindi per pochissimo, secondo il governo, non si andrà in recessione. Il deficit dovrebbe restare invariato, anche se il pareggio di bilancio, cioè il deficit pari a zero, slitta al 2013. E in questo quadro di debolezza economica l'unica cosa che sta tenendo sono le nostre esportazioni. Nei primi sei mesi del 2008 hanno fatto un più 6%. Parliamone allora con Paolo Zegna, che è vicepresidente di Confindustria con delega proprio all'internazionalizzazione. Buonasera. Buonasera. Export come pistone di questo motore, unico pistone di questo motore italiano che marcia molto molto basso quanto a giri. Forse chiuderemo l'anno, come voi avete detto, in recessione per la terza volta dal dopoguerra. L'export ha tenuto, ha rappresentato nei primi sei mesi del 2008, con un incremento del 6% complessivo, quel poco di crescita che si è vista. Qualche segnale di frenata arriva. Ora, voi sperate che l'euro ricondotto a quota 1,43, 1,42 possa darvi una mano, o temete che a questo punto si stiano scaricando sul sistema tutti i costi di un petrolio stabilmente sopra 100 dollari al barile? Ma guarda, di fare delle previsioni per i prossimi mesi in effetti non lascia particolarmente ottimisti, proprio perché il dollaro che si riprende nei confronti dell'euro è un qualche cosa che al limite potrà dare dei risultati l'anno prossimo, con dei listini che vengono fatti in questi giorni e che però non produrranno appunto che risultato l'anno prossimo. Quindi ho l'impressione effettivamente che in questi ultimi mesi di quest'anno uno debba immaginarsi che non saranno rose e fiori, o meglio, quello che era stato un trend positivo di inizio anno, che appunto è andato in rallentamento, ho l'impressione che sui mercati tradizionali, viste anche le altre cattive notizie che arrivano sul fronte finanziario, quindi con degli effetti che in questo momento è difficile prevedere, non credo che faranno riprendere i consumi, la fiducia dei consumatori e quindi credo che non produrranno dei grossi effetti positivi. Ci sono i paesi, per fortuna, in via di sviluppo, sui quali in maniera lungimirante noi abbiamo puntato il nostro nuovo export, sono paesi che una volta chiamavamo emergenti e probabilmente oggi sono più emersi di quello che noi vorremmo fossero, o comunque è giusto rendersi conto che sono già a un grado di sviluppo importante, che stanno nonostante tutto tenendo bene, per cui anche gli ultimi dati a giugno-luglio denotano sì un calo di esportazioni nei mercati più tradizionali, ma è ancora piuttosto pimpante su questi mercati nuovi, dove le crescite economiche sono magari a doppia cifra e sono in quella fase che permettono di vedere in maniera positiva ancora i mesi a venire. Però se ci saranno degli effetti positivi della rivalutazione sull'euro delle varie valute straniere, questo credo è prima del 2009, non lo vedremo. Io la ringrazio al vicepresidente Paolo Zegna, siamo in chiusura di programma. Noi come sempre, come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, seguiremo poi le missioni di imprenditori, banche, quindi le prossime, Vietnam in primo luogo e Israele. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.